Ciao, io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. Hey everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rosso on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Bella raga, sono Pietro. Anche di solo vinile libri, io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Benghino, signori, benghino. Sabato 8 ottobre, iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa. Dalle ore 20, cena vegana Il Leone Tesbrana. Dalle ore 21.30, in scena proiezioni contro il circo con animali. Dalle ore 22, in pista le performance musicali di Al Cerchio di Fuoco Spento, il punk rock di Tiger Boom. Alla Gabbia Spezzata, l'hardcore militante dei Repressione. Alla Briglia Perduta, il punk di Ottia dei Light the Bob. È dedicato al domatore azzannato, il punk romantico dei Kalashnikov Collective. Dove? Molto lo dico. Al Centro Sociale Spartaco, via Selinunte 57, Roma. Cinque minuti passate le ore 21. Ritornano le trasmissioni in diretta su Radio Onda Rossa 87.9 in FM della banda romana e laziale, e questo è l'appuntamento del giovedì sera con Do It Yourself Invasion. Prima che l'ombra cacciasse il sole, e quindi un occhio aperto su tutto quello. Il re cavalcava nella foresta che riguarda l'autoproduzione musicale e non solo. Il pugno chiuso. Quando si alzò il vento, quanto mi sta. Siamo i signori di questa terra. Radio Onda Rossa, radio nata libera nel 1977. Senza padrini, senza padroni. E che va avanti autogestita e totalmente autofinanziata. Emerse un grumo di paura. Radio che per continuare a trasmettere ha bisogno del vostro sostegno. E potete farlo attraverso il sito della radio, quindi siamo i signori al www.ondarossa.info. Andando a cliccare su Sostieni troverete tutte le coordinate per poter sostenere questo progetto. Morir nel mare. nonché attraverso lo storico conto corrente postale il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185 Roma. Abbiamo mandato in apertura lo spot relativo all'iniziativa del prossimo 8 ottobre e quindi un concerto a sostegno di Radio Onda Rossa al CSOA Spartaco con Kalashnikov Collective, Tiger Boom, Repressione, Light the Bob. Ma insomma abbiamo un po' di tempo, un po' di puntate per poter approfondire l'iniziativa. Ve ne ricordiamo un'altra più imminente, quindi un appuntamento per il prossimo 24 settembre con la manifestazione nazionale in solidarietà con la lotta curda. E quindi sabato 24 settembre dalle ore 14:30 l'appuntamento è a piazza di Porta Pia. E quindi una manifestazione nazionale contro la guerra turca al popolo curdo, contro l'accordo UE-Turchia sui profughi, per la liberazione di Abdullah Öcalan. Quest'oggi, giovedì appunto 15 settembre, giornata segnata dall'uccisione di un operaio che partecipava ad un picchetto fuori alla sua fabbrica. Abdeslam El Danaf, padre di 5 figli, ucciso perché lottava sul posto di lavoro. E noi iniziamo così con la prima traccia questa sera dei Razza a Parte. Dal loro lavoro del 2003, Servi o Ribelli, e questa è la settima traccia, Rabbia. E ricordiamo i contatti della radio con l'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione. Potete scriverci a fantasma@ondarossa.info e quindi per sottoporci le vostre autoproduzioni o segnalarci le vostre iniziative. Segnaliamo l'iniziativa di domani, a Velletri. Un'iniziativa organizzata da alcuni compagni, da alcune compagne appunto, attivi sul territorio di Velletri. E leggiamo il loro comunicato. E quindi dalla fine della Cassa del Mezzogiorno ad oggi abbiamo visto e vissuto lo smantellamento progressivo dell'impianto industriale della zona pontina. Questa iniziativa nasce con l'obiettivo di solidarietà e mutualismo nei confronti dei lavoratori, troppo spesso lasciati soli dalle istituzioni e da coloro che dovrebbero tutelare i loro diritti. Nello specifico, i lavoratori dell'Avio Interiors hanno subito cambi di padrone e di casacche senza veder cambiare la propria condizione, anzi vedendola peggiorare. Attori diversi per il solito copione: le difficoltà economiche, la crisi, gli aiuti, gli accordi sindacali, la prepotenza del padrone e alla fine la cassa integrazione. Dalla Meccana alla Goodyear all'Avio Interiors, sempre lo stesso esperto in fallimenti. Tuttavia il padrone ha trovato un grosso duro blocco a rovinargli il cammino. I lavoratori licenziati sono in presidio continuo da quasi 2 anni, in tenda, sulla banchina dell'Appia e davanti ai tribunali. Quindi un'iniziativa a sostegno dei lavoratori in presidio continuo, appunto. E ci sarà un concerto con un sacco di gruppi, tra cui Orange Jewish, i Buttero, i Boycott Mankind, i Sepik, gli Istinti Ostili da Roma, Atti Vandalici, i Point to Head e i Mefitica. E quindi un sacco di gruppi. L'ingresso sarà a sottoscrizione libera, mentre l'iniziativa inizierà dalle ore 18. E sarà nei locali del dopolavoro ferroviario, piazza Martiri d'Ungheria, proprio alla stazione ferroviaria di Velletri, e quindi dalle ore 18. E noi passiamo uno dei gruppi che saranno presenti domani. Loro da Ostia, Atti Vandalici. Circondano vabbè, siamo di parte. Abbiamo un debole per il Buttero. E quindi anche loro tra i gruppi che suoneranno a sostegno dei lavoratori. Quindi partecipando all'iniziativa di domani in quel di Velletri, oltre che sostenere direttamente i lavoratori, sarà un'occasione appunto per mantenere viva la provincia resistente. Gira per la mia malattia. Ce li riascoltiamo da capo, loro sono i Buttero. Perché me lo chiedi? Sembri malato. Sì, sono malato. Prendi le medicine? Non c'è medicina per la mia malattia. La conosci la canzone Il mondo nelle sue mani? Sì, la conosco. L'intero mondo ce l'ha lui e l'universo intero. Non ti va di cantare? L'intero mondo ce l'ha lui, l'universo intero. Ce l'ha lui, l'intero mondo. Ce l'ha lui, da un lavoro del 2006, loro sono i Kalashnikov Collective. scritta Dreams for Super Defeated Heroes, sogni da supereroi, no, da eroi super sconfitti. E questa è la quinta traccia, Margini non codificati. Noi vi lasciamo a questo ascolto. Nel frattempo cerchiamo di collegarci con un compagno che ci presenterà la compilation anticarceraria nel distruggere la gabbia. 21 e 32 minuti primi, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa sulle 87.9 in FM. Ed abbiamo in collegamento Pavel. Ci sei? Ciao. Ciao, ciao a tutti. C'è anche Domes qua, si allora, è appioppato anche lui. Ciao a tutti e allora, a tutte. Sì, tutte, allora, ben trovati Pavel e Domes qui a Radio Onda Rossa. E allora, perché il collegamento di questa sera? Perché andiamo a presentare una compilation benefit anticarceraria e ci vuoi insomma raccontare quando è nata l'idea, un po' la genesi di questa compilation? Allora, guarda, io partirei da una citazione, giusto per farmi tirare dietro le brutte parole che tu in genere mi dici, sei troppo almanacco 77, no? Allora, io partirei dicendo questa citazione di Spazzali, che è un avvocato del Soccorso Rosso. Dice: il proletariato fuori dalle carceri, in fabbrica, in quartiere, in campagna, è composto di uomini in libertà provvisoria. Per le classi popolari, il carcere ha la stessa natura dell'infortunio sul lavoro, della malattia, della disoccupazione, alla natura insomma dei fenomeni sociali dipendenti in maniera specifica dal modo di produzione di una società governata dalla borghesia. Ecco, questo ha molto a che fare con quello che è accaduto oggi fuori alla GLS, no? E quindi ci spiega come in realtà sia molto attuale, sembra una notizia fuori dal tempo, ma in realtà sia i morti sul lavoro, sia i picchetti, i crumiri, i padroni e il carcere sono questioni molto attuali che quindi chiunque militante subisce e sente vicino. Ecco perché la necessità, abbiamo sentito qui alcuni compagni, partendo da quello che è stato un caso di un compagno anarchico singolo qui a Bologna, che attualmente è ancora detenuto, è venuta l'idea di smuovere un po' le coscienze, soprattutto di chi è nell'ambiente punk hardcore e partecipa spesso a serate come quelle che faremo ad esempio l'8 di ottobre, no? A serate benefit. Mm-hmm. E diciamo, su quale tema, su quale posizione? Bene, noi abbiamo chiesto di prendere una posizione, come diceva noi, Timidà, e di dire no al carcere, distruggiamo le carceri, no? Questa cosa nel distruggere la gabbia, che è una citazione appunto della canzone di Manfredi, Chi l'ha detto che non c'è. Niente, abbiamo detto raga, cerchiamo di spargere un po' la voce che c'è bisogno di sostanza, c'è bisogno concretamente di solidarietà concreta attorno a quello che è il tema della detenzione, perché ci sono processi, perché ci sono, cioè il carcere per un proletario comporta una spesa non indifferente, oltre che tutta quella frustrazione dell'animo, no? Ed è oltre che delle carni. E quindi niente, abbiamo deciso di provare a fare, come si dicono adesso gli intellettuali, un call. Mm-hmm. Un call for art. Quindi abbiamo detto dai, e proviamo a vedere. Le risposte sono state quelle che hai visto, praticamente siamo 40 gruppi di tutta la scena, si parte da quella hip hop, c'è qualcuno più grind, ci sta gran parte della scena militante hardcore punk italiana, e si va quindi dai Sempre Peggio ai Cattivo Sangue, Collapse, di Cenere, ci siamo in Repressione, Raukers, c'è Grumo, ci sta un botto di gente, Brigate Bardot, Contrasto anche, quindi una compilation bella sostanziosa, questo per partire, no? Allora, è una compilation insomma che sì, hip hop, punk hardcore, a parte insomma qualche caso insomma di vecchiacci che ancora bazzicano nella scena, l'età media insomma diciamo sempre un'età giovane. Mi chiedevo, visto che insomma siete un gruppo con un'età media abbastanza giovane, organizzate iniziative in quel di Bologna, alla saletta autogestita lì dell'XM, e come gruppo insomma non l'abbiamo detto ad inizio collegamento, a Pavel e Domes dei Repressione, presenti anche loro sulla compilation, insomma, avete la possibilità di essere un po' una sorta di osservatorio, sia per le iniziative che organizzate che per i concerti che fate in giro. Qual è la vostra percezione del tema carcere, come viene recepito in giro, insomma? Allora, guarda, la domanda è ben posta, eh? La risposta è un po' complessa, perché personalmente io sento che deve essere un tema centrale, quindi forse parto da questa distorsione ottica mia, però mi rendo conto che non è per tutti così, e quindi dipende molto dalla zona in cui vai a suonare o della gente dal posto in cui viene, no? Ci sono posti in cui è molto sentita, e quindi tutto quello che è la solidarietà concreta, quella attiva, no? Degli inguaiati con la legge, casse di resistenza e tutto, c'è molta militanza, che questo poi va a finire non solo nei testi ma proprio nell'attitudine di quelli che, oltre a essere dei membri dei gruppi, sono dei singoli militanti nella quotidianità. E poi invece ci sono delle zone e dei gruppi che magari sì, sono nella scena, però sai, la sentono meno, lo sentono come qualcosa, sì, ok, di retorico. Io ho pensato a questo discorso della morfinizzazione, cioè morfinizzare, siamo un po' morfinizzati anche per il fatto di usare i social network come Facebook, a questo continuo richiamo al benefit, tant'è che quella, come si chiama, Arcorella 2000 lì, sì, ha fatto un articolo battuta dicendo che tra un po' si faranno i concerti, cioè i benefit, insomma, ha preso un po' in giro la storia del benefit, no? Non so se hai presente. Sì, sì, sì. I benefit per chi organizza i benefit, insomma. Esatto, vabbè, esatto. C'è un problema di fondo, ecco, questo è un problema cardine. C'è un problema perché in realtà i benefit, cioè la musica di per sé non significa niente. Cioè musica hardcore, alla fine, che sia grind, metal, ci puoi anche sputare sangue sopra, suonarlo benissimo, avere migliore strumentazione, ma serve per dare un messaggio, no? E questo messaggio è comunque dato, nel senso, tu nel momento in cui parli di valigie di cartone oppure di plastica all'interno dei tuoi testi, piuttosto che di gabbie oppure di cosa, stai dando un messaggio di disinteresse. La cosa bella di questo nel distruggere la gabbia è stato che in realtà ha significato qualcosa, cioè nel senso, c'è qualcosa che va, cioè della gente ha subito mandato la traccia appena contattato, compa, allora che fai, partecipi? Sì, volentieri, onoratissimo. Cioè c'è gente che addirittura ha detto subito onorato, cioè non ha neanche voluto sapere precisamente di cosa si tratta, cioè c'è stato uno schieramento manicheo, nel senso la gente ha detto secondo me è giusto, perché il carcere ovviamente ti opprime, perché la senti come una cosa vicina, o comunque la senti come una cosa anche eticamente ingiusta, no? Perché si può pensare un mondo senza galere, no? Voi fate scarcerando, quindi lo saprai molto meglio di me di tutta quella che c'è la teoria dietro di un mondo senza galere. E quindi niente, ti posso dire, il polso della situazione secondo me, dal mio umile e piccolo punto di vista molto relativo, è quello che c'è una fetta molto importante di scena che ha sentito molto vicino questo tema e che quindi l'ha vissuto come una cosa molto partecipata, e quindi ci sono compagni e compagni che hanno voluto partecipare attivamente e si sbatteranno, perché poi di questa compilation noi intendiamo farne subito delle copie fisiche che serviranno ovviamente per farlo girare alla vecchia, no? Quindi sulle distro, ai concerti, così, ma anche per continuare a tirar su quella solidarietà concreta, perché non è che siamo Teleton oppure, certo, che ti devo dire, Save the Children, qua si parla veramente di un'etica del do it yourself. Voi lo sapete benissimo con Radio Onda Rossa come è difficile portare avanti un'iniziativa che comporta tanto sbattimento, e quindi la solidarietà concreta è quella di sbattersi e mettere quello che chiamiamo il vil denaro, no? Cioè organizzare concerti, organizzare così, alla fine purtroppo gira intorno alla moneta, finché non decapiteremo questo sistema girerà attorno anche a quello, e quindi la mia idea è questa. Poi non so, Domes, che ha 10 anni meno di me, se poi ha delle idee diverse. Sì, sì, no, ma adesso facciamo una domanda anche a Domes. No, appunto, mi ricollego con quello che hai detto tu ad inizio telefonata, appunto, che non è stata un'iniziativa nata da un'emergenzialità, no? Cioè, l'emergenza c'è costante, quella, insomma, sicuramente finanziaria, però c'è un lavoro di sensibilizzazione, di sondare le morfinizzazioni, come dicevi tu, no? A Domes? No, no, a voi tutti, insomma. Sì, sì. L'idea appunto della competition è bello aver visto questo concretizzarsi. È stato l'avvicinamento da parte della maggior parte dei gruppi della scena attorno a questo tema, che come hai detto tu, fondamentale, che è quello carcerario. E come diceva Fabio, concordo totalmente su tutto quello che ha detto, quindi si può aggiungere veramente poco. E bisogna sempre ricordare che il genere musicale che noi suoniamo è hardcore punk, poi si può magari declinare in noi, in street punk, tutto quello che vuole. Comunque questo tipo di musica, questo genere, deve essere un qualcosa che non deve essere mai fine a se stesso, non deve essere mai un mero divertentismo, un modo per evadere un qualcosa, deve sempre puntare a tematiche reali, quindi all'osservare questa realtà, le distorsioni appunto, e cercare di combatterle. E quindi come si può combattere? Andando contro il carcere, cercando di distruggere ogni barriera, ogni galera, cercando di opporsi a questo sistema che ogni giorno ci opprime. Abbiamo visto stamattina cosa è successo. Insomma, deve essere un modo per portare solidarietà, deve essere un modo per avvicinare gente, per appunto allargare affinità, conoscenze, e cercare di opporsi a questo stato di cose. Un modo per farlo ci è sembrato quello di fare questa compilation. Adesso, dopo tutte queste belle parole che stiamo dicendo, quello che, come diceva Pavel, è fondamentale è il contributo. Io penso che, a parte le band che abbiano partecipato, chiunque comunque bazzichi la scena abbia il dovere, come minimo, di... Il dovere, non inizia a fare l'esattore. Vabbè, però il dovere, non parlo di questa compilation, ma di qualsiasi benefit a livello carcerario, ma non solo, di partecipare appunto economicamente, se si può ovviamente, altrimenti anche supportando, diffondendo, facendo girare, è già un passo. Senti, allora ricordiamo un po' di coordinate appunto per ottenere questa compilation, che al momento è unicamente in formato digitale, no? Sì, esatto. Adesso uno dovrebbe andare su Bandcamp, no? E cercare nel distruggere la gabbia benefit anticarcerario, e lì ci sta la possibilità con il click di inviare. Abbiamo messo una quota 5 euro che ci è passa tonda, diciamo, anche se in genere, cioè, comunque 5 euro sono sempre 5 euro, però diciamo che la maggior parte di noi ogni tanto la spreca, oppure fa un piccolo sacrificio, però vabbè, questo è un discorso un po' cattolico, quindi del sacrificio, chi se la sente, la verità è questa, chi se la sente. Poi chiaramente può contattare me, può contattare Gringo, può contattare Ricky e tantissimi altri del giro bolognese, non solo, per se vuole distribuire questa compilation, oppure prendersi delle copie, perché comunque verranno date, speriamo, guarda, diciamo così, speriamo per il settembre, visto che è un festivalone, mm-hmm. Quindi viene un sacco di gente, si può vendere queste copie fisiche, che poi saranno comunque do it yourself, quindi niente. Io volevo aggiungere, se posso, il fatto che tu prima mi parlavi di gente più giovane. Vabbè, io ormai ho sfondato i 30, quindi non mi sento tantissimo giovane, però sono contento del fatto che ci sono dei gruppi molto giovani, nel senso, tipo questo gruppo marchigiano Eternal Noir Doom, no? Mm-hmm. Ha mandato questa traccia ed è una cosa bella sapere che un giovane dice no, la mando, ok, ci sto. Quindi, nel senso, uno piccolo schieramento, no? Poi ci sono gruppi che magari da nord a sud, tipo dagli Antidigos e Cattivo Sangue, scena pugliese, no, pura, fino a passando per Predopposition, anche unire un po', no, contro l'idea della scena divisa: a nord funziona così, facciamo i mattinee, a sud i concerti iniziano alle 3 di notte, se no non iniziano. Bello unire un po' tutti quanti, no, tutti quanti dal nord al sud hanno questo tema che ci unisce. Per me sarebbe, non è utopia, però sarebbe un bel primo passo unirsi attorno al tema più scottante, che è quello del carcere. Poi chiaramente ci sono temi fondamentali come quella del lavoro, ci sono i temi dei conflitti sociali esasperanti, da quello della casa, no? Tutto quello, certo, di cui parlate fondamentalmente nelle vostre trasmissioni. No, diciamo che andavo un po' a insistere sulla fascia d'età, perché insomma la tendenza la tendenza che c'è è quella per la quale insomma la repressione va a farsi sempre più pesante con il tempo che passa, quindi mi interessava appunto capire da quello che avete visto voi come veniva recepito appunto tra i più giovani l'argomento repressione carcere, visto che insomma saranno poi i molto giovani di adesso forse a vivere le situazioni più pesanti in futuro, vista la tendenza di oggi, no? Hai colto nel segno, perché fondamentalmente in realtà già se vedi tutte le manifestazioni che iniziano, ci sono a inizio anno, no? Cioè questi ragazzi già si rendono conto nelle scuole, soprattutto nelle medie, nelle superiori, ti rendi conto già in che tipo di mondo ti stanno spingendo. È quello che prima era la concezione di lavoro, casa, famiglia, cioè totalmente venuto a crollare. Il welfare, ciao, ce lo siamo dimenticati, neanche ce lo rivendichiamo, ok, va bene. Però parliamo del fatto che la gente adesso, i ragazzi, che già prendono uno strumento in mano, già è una piccola scelta, perché moltissimi in questo individualismo, no? Non hanno manco voglia di trovare altra gente e dire, oh, ma suoniamo, no. Quindi già questo è un piccolo passo. Poi rendiamoci conto, tutte queste manifestazioni, cioè vengono tutte manganellate, nel senso adesso non lasciano più niente al caso, cioè anche la manifestazione, per esempio, no, per un attimo cambiare tema, di oggi, in solidarietà qua a Bologna per quello che è successo al lavoratore della logistica, cioè è stata manganellata, non è che loro vanno troppo per il sottile. Quindi la repressione aumenta, chiaramente aumenta con il disagio sociale, queste sono le classiche regole, no, le sappiamo tutti. Però quando tu poi fai musica, la puoi usare anche come strumento di pura evasione, no? Che ci sta, cioè non è che dobbiamo essere 100% armati e militanti, però nel senso questi ragazzi giovani sentono l'esigenza di esprimersi e sentono l'esigenza di esprimersi in un determinato modo. Quindi forse la strada è che uno sente più vicino il carcere come una cosa che gli appartiene, piuttosto che magari il posto di lavoro fisso, voglio dire, capito? Sì. Cioè qualcosa cambia anche in questo senso, quindi secondo me la direzione che questa compilation intraprende può essere molto positiva. Sì, l'obiettivo era quello di vedere un po' la solidarietà che appunto arrivasse, e siamo veramente colpiti dal fatto che ci sia stata un grande solidarietà. Quindi cioè ad esempio c'è un gruppo che si chiama Cristo, no? Che noi ci faremo il mini tour. Cioè sono rimasto scioccato, questi sono ragazzini, sono bravissimi, però cioè si sbattono, organizzano una terra sarda che comunque non è tra le più facili da smuovere, per quanto molto generosa, non è quella che si smuove più facilmente sull'hardcore punk, anche se c'è stata un'ottima scena, no? E loro organizzano, si sbattono, sentono vicino il tema dell'antispecismo, sentono vicino, hanno fatto una canzone sul manifesto antisessista, cioè nel senso parole d'ordine che per tanti anni, no, noi che siamo più vecchi lo sappiamo, sono state un po' buttate lì, no? Dite vabbè, questo è un bagaglio che non ci appartiene più, adesso si parla d'altro, il futuro è nostro, adesso noi ce la faremo. Invece, come si vede, quando parli del materiale si parla delle cose concrete, noi siamo scesi a un livello di sia di repressione ma anche di vita quotidiana molto più basso rispetto a quello che ci immaginavamo, immaginavano i nostri genitori per noi, no? Quindi se come gli anni 70, negli anni 60 adesso si torna a parlare di temi come il carcere, il sessismo, cioè vuol dire che qualcosa non è andata per il verso giusto, e invece di parlare di astronavi che vanno su Marte e possibilità di avere un altro pianeta verde senza inquinamento, così stiamo parlando del fatto che ci si sbatte al gabbio per una prima cazzata, perché poi le leggi si sono molto inferocite, l'amministrativo è diventato penale, quindi molto più facile finire al gabbio oggi. Va bene, allora io direi che insomma abbiamo presentato a dovere, se non avete nient'altro da aggiungere. Come? Abbiamo appesantito un po'. No, era più che mai la voglia di presentare anche il lato musicale, insomma, dopo queste chiacchiere andrei a presentare qualcuno dei gruppi che fanno parte della compilation, e poi insomma vado a ricordare poi più tardi i vari contatti. Volete scegliere qualcosa dalla compilation? Ma scegliere il ragazzetto qua. Ah, già che abbiamo Pischelletto. li adoro. Io metterei Io Cristo. Io Cristo. Parziale. Ok. Va bene, allora intanto vi ringrazio insomma per il contributo. Grazie di questa sera. E ci sentiremo presto. Qualcosa mi dice che ci sentiremo presto. Esatto, da questi certo, microfoni, insomma. Esatto. Va bene. Quindi un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici, un abbraccio, un abbraccione a Roma e a tutta l'Italia che ti ascolta. Tutta l'Italia che ci ascolta, va bene, questa è la maniera di protagonista Magalli, questa chiusura. Sì, è bellissimo. Dai, un saluto a casa, insomma. Va bene. Sì. Allora, un abbraccio a voi Repressione, grazie ancora della presentazione di questa compilation e ci sentiamo presto. Un bacetto, certo. Pazzerello. Ok, ciao Pazzerello. Ciao bello. Ciao bello. Quindi, come promesso, andiamo a passare qualcuno dei gruppi che fanno parte della compilation anticarceraria nel distruggere la gabbia. E loro sono gli O Cristo con la loro La Nostra Azione. Altro gruppo presente nella compilation da Firenze, i Collapse, questa è la loro Alla Deriva. Una nave con grandi vele sull'albero maestro e dalla poppa pensola una canoa. Non è che la tua immaginazione. Quale nave può spingersi fin qui? Abbiamo tutti la febbre. È un'allucinazione. Si dice che questi sono segni che indicano l'approssimarsi della fine. Un saluto a Elena Velena all'ascolto. Grazie, grazie, grazie. Allora andiamo a chiudere con l'ultima traccia a presentazione della compilation Benefit Anticarceraria nel distruggere la gabbia. Con un gruppone visto recentemente dal vivo, loro sono una bomba. E sono i Raukers. E questo è il loro pensiero stupendo. Allora, come ottenere la compilation? Andando sulla piattaforma Bandcamp e cercando Against Prison. Poi comunque, quando pubblicheremo il podcast della trasmissione, quindi andando a cliccare sul palinsesto, poi sulla giornata del giovedì e cercando la trasmissione Do It Yourself Invasion, quando pubblicheremo il podcast andremo insomma a riportare anche il link della compilation. 22:03 minuti primi. Andiamo a chiudere così le trasmissioni in diretta per il giovedì, perché Apostasia ancora non ha riniziato dopo la pausa estiva. Stanno ancora ricaricando le batterie. Trasmissioni che torneranno in diretta su Radio Onda Rossa domani, venerdì, con la rassegna stampa delle ore 8. Per poi proseguire con i redazionali della mattina. Non teniamo mai il conto, quindi non sappiamo se la se l'appuntamento quindicinale di Roma a Roma è domani. Dalle ore 10:15. Poi dalle ore 11:15 Roma si barrica. Il giornale radio delle ore 13, uno spazio comunicazione delle, alle 13:30. Poi se, se proprio vi piace l'hip hop, dalle ore 14 niente da vendere. Alle 15:30 silenzio assordante. E poi si prosegue con Down in the Desert, la trasmissione di Desert Rock Stoner Psichedelia, dalle ore 17:30. E poi dalle ore 18:30 alle ore di religione, per poi chiudere con il giornale radio delle 19:30. Appuntamento non ancora fisso nel, nel giorno e nell'orario, ma di Search and Destroy, una, un'altra trasmissione di punk su Radio Onda Rossa. E quindi per il momento sarà questo venerdì dalle ore 21, poi non sappiamo se cambierà giorno ed orario. Comunque domani Search and Destroy dalle ore 21. E noi andiamo a chiudere così la puntata di oggi, 15 settembre, di Do It Yourself Invasion. Vi lasciamo all'automatico di Radio Onda Rossa. E quindi un saluto a tutte e tutti all'ascolto. Il nostro saluto più caro va che si trova dietro, dietro le sbarre. Un abbraccio, alla settimana prossima. Dai!